America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. On this vote, the yeas are 45, the nays are 55, the amendment is not agreed to. Bene, una nuova bocciatura, avete sentito, al Senato per una proposta di Donald Trump e della leadership repubblicana. Si sta continuando a litigare sulla questione della riforma sanitaria. Non voglio entrare troppo nel dettaglio perché sennò la cosa si complica e diventa troppo tecnica, ma per semplificare, a un certo punto ieri Trump e la leadership hanno deciso di portare al voto che cosa? Una proposta di abrogazione completa dell'Obamacare, come se fosse una cosa semplice da farsi. E devo dire che hanno preso davvero una bella sconfitta, perché soltanto 45 senatori repubblicani hanno votato a favore, mentre almeno 7-8 senatori repubblicani sono uniti ai democratici. C'è stata una maggioranza di 55 voti favorevoli a mantenere l'Obamacare. Che cosa sta capitando? Perché dobbiamo cercare di capire qual è la psicologia di questo dramma washingtoniano. Il problema di fondo è molto semplice. L'amministrazione deve procedere con altre riforme. Per esempio con la riforma fiscale c'è una promessa molto impegnativa, quella di ridurre l'aliquota alle aziende dal 35 al 15%. Parliamo di $1,000 miliardi. Dove si recuperano questi fondi? Beh, si possono solo recuperare da una riduzione delle spese dell'Obamacare. E dunque c'è una parte contabile in questa drammatica vicenda washingtoniana che ha visto tra i suoi protagonisti un senatore del calibro di John McCain, che è rientrato dopo essere stato operato prima al cervello e dopo che è stato diagnosticato con un cancro sempre al cervello, un cancro terminale al cervello, e è venuto dall'Arizona a Washington per poter votare. Però anche McCain ha dato delle versioni contraddittorie, perché su una cosa ha appoggiato Trump e dunque ha votato a favore, per esempio, dell'apertura del dibattito. Quando poi si è trattato di abrogare alcuni aspetti dell'Obamacare, allora lì ha votato contro. Dunque questo vi spiega quanto complicata sia la situazione, quanto molti senatori si trovino in difficoltà a immaginare un confronto con gli elettori nel novembre del 2018, coloro che dovranno tornare alle urne. Pensate, tra i 30 e i 40 milioni di americani, se questo voto fosse passato, avrebbero perso immediatamente qualunque benefit sanitario senza che ci fosse una proposta alternativa. Dunque, la vicenda, vi dicevo, è complicata e oggi non vorrei continuare a parlare di riforma sanitaria, vedremo come andrà a finire. Io direi usciamo dalla capitale americana e torniamo a Brooklyn. Torniamo perché vi parlai di Brooklyn qualche giorno fa, quando feci un'intervista con Sacha Barbeau, che ci ha raccontato la Brooklyn musicale, questo quartiere che ormai è diventato un quartiere super residenziale e è un quartiere dove nascono anche delle fabbriche. Chi ha costruito una nuova fabbrica? Un imprenditore italiano, l'ha scelta come base per una delle sue fabbriche di occhiali. E così facendo, ha accontentato Donald Trump. Sentiamo. It's the long-term jobs that we're looking for. We're bringing manufacturing back to the United States big league. We're reducing taxes very substantially and we're reducing unnecessary regulations. Beh, quante volte l'abbiamo sentito Donald Trump incoraggiare le aziende americane a riportare il loro business, la loro produzione, il loro settore manifatturiero in America. Qualche cosa è successo, ma qualche cosa era già successo anche prima che Trump cominciasse i suoi slogan politici. Perché? Beh, perché succedeva che magari il costo del lavoro in Cina aumentava e alcune aziende americane, me ne ricordo per esempio una che faceva elettrodomestici, ha deciso di riportare la produzione nel cuore degli Stati Uniti d'America, in uno stato del Midwest. Ma questo succedeva prima. Dopo il messaggio di Trump, varie aziende hanno fatto gara per dire adesso noi riportiamo dei posti di lavoro in America, le aziende dell'auto per esempio, creiamo 1000 posti di lavoro qua, 500 là, 100 posti di lavoro dall'altra parte. Non credo che Trump avrebbe potuto immaginare che a contribuire a questo suo messaggio di riportare il lavoro in America potesse pensarci un imprenditore italiano, Alessandro Lanaro, che abbiamo già intervistato qui ai microfoni di America 24 in una delle mie storie del Solo Andata. E Lanaro fa occhiali ed è riuscito ad imporsi nel mercato americano organizzando una produzione dall'Italia, dove c'è una M-Factory italiana, e facendo poi produzione in Cina, in Giappone e così via, arrivando addirittura a conquistare Walmart, che è, come dire, è il gioiello della grande distribuzione americana. Io ho Alessandro Lanaro con me ai microfoni di America 24, fondatore, proprietario, amministratore delegato di Modo e di M-Factory. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Mario, come sta? Bene, bene, grazie. Allora, insomma, qui le cose stanno procedendo, perché lei a questo punto, diamo la notizia, ha aperto una fabbrica a Brooklyn. Uno immagina, esatto, che le fabbriche, non so, si sente, non so, la BMW le aprono nel sud degli Stati Uniti, magari con delle condizioni speciali, e lei l'ha aperta a Brooklyn. Ci racconti perché Brooklyn? Perché insomma ci riporta un po' indietro nel tempo, come dire, Brooklyn adesso è all'avanguardia, ci sono i giovani, è molto attiva, è diventato un alter ego di quello che poteva essere il Village molti molti anni fa, e lei apre una fabbrica a Brooklyn. Perché? Allora, innanzitutto i nostri uffici sono a New York, a Soho, e quindi volevamo essere vicini ai nostri uffici di New York, e quindi abbiamo deciso che Brooklyn era il posto giusto, aveva l'atmosfera giusta per poter attivare questa produzione made in America, ma anche made in Brooklyn. Ecco, made in America, made in Brooklyn. Ma dove siete andati? Avete cominciato a girare? Avete trovato una casa in affitto? Un loft in affitto? Dove siete andati? Allora, siamo andati in un campus che si chiama Industry City, che è un campus molto divertente, dove ci sono vari creatori e produttori. Ma e Industry, no, altri... interrompo, Industry City, ma lo conosco, Industry City, ci sono degli ex cantieri navali, se non sbaglio, e quindi si affaccia sul porto di New York, davanti alla Statua della Libertà, quindi c'è anche una coreografia bellissima, o sbaglio? È un posto stupendo, secondo noi, quindi come l'abbiamo visto ci siamo innamorati, e sull'acqua vede la Statua della Libertà. Ma è un'iniziativa interamente privata, questo parco industriale, oppure c'è un aiuto dello Stato della città di New York? È interamente privato. Chi altro c'è? Quali sono i vostri compagni di gioco, diciamo così, in questo parco industriale? Varia molto. Abbiamo dalla squadra di basketball dei Brooklyn Nets, che si sono trasferiti proprio in uno dei building, che degli edifici che fanno questo campus, a vari produttori, dal produttore degli impianti per fare lo stampaggio a 3D, a addirittura dei produttori di cioccolato, dei produttori di lampade, che sono quasi delle lampade, pezzi d'arte, quindi c'è una varietà. Insomma, c'è di tutto, è veramente un centro produttivo manifatturiero sorto in modo spontaneo a Brooklyn, e mi sembra che questo sia diventato tra l'altro un esempio, perché uno dei vostri grandi clienti, se non sbaglio, è Walmart, e abbiamo visto una pubblicità che Walmart su base nazionale ha dedicato proprio a questa iniziativa che arriva da un imprenditore italiano. Sentiamo. We're one of the only eyewear manufacturers in the United States. That makes me one of the only people in the country that knows how to make glasses. So I'm one of a few, but I guess a chosen few. C'è una narrazione, c'è qualcuno che racconta la sua storia di artigiano, e poi a un certo punto si vede anche lei, se non sbaglio, no? Che si prova degli occhiali. Ecco, che emozione le ha dato il fatto di diventare un simbolo dell'America che cerca di riconquistare il suo orgoglio produttivo? È stato molto bello, abbiamo dei clienti che ci hanno senz'altro dato degli incentivi importanti dal punto di vista della distribuzione, quindi siamo molto orgogliosi. Ecco, e qual è la storia di questo giovane che si vede con un bambino che racconta con orgoglio di aver trovato questo posto di lavoro da voi? Perché è un vostro dipendente, cioè è un reality, non è un attore preso per una pubblicità. Assolutamente, è il capo macchinista, è la persona che fa funzionare queste macchine a controllo numerico, e racconta la storia della sua famiglia, ed è un angolo importante umano che Walmart ha voluto far vedere nella loro pubblicità. Allora, avete un impianto in Italia, adesso un impianto a Brooklyn, mi pare con 70 persone. Avete ancora rapporti con Cina e Giappone per alcune forniture, ma la vostra specialità è quella di fare degli occhiali che sono riciclati, che sono degli occhiali che riciclano da un punto di vista ambientale. Quindi è questo anche che ha colpito l'immaginazione del cliente americano, o sbaglio? Sì, è senz'altro stato uno dei nostri punti di forza, e che ci ha aiutato a crescere nel mercato americano con grande vigore. Ecco, mi sembra che il classico esempio dell'imprenditore italiano, perché è una struttura relativamente piccola, mi pare di aver sentito che fate vendite più o meno per 60 milioni, insomma al di sotto dei 100 milioni di dollari, eppure una struttura globale, cioè avete impianti in Italia, in America, e comprate da Cina e dal Giappone, e avete una distribuzione parallela qui sul mercato americano. Domanda finale, uno, considerate magari l'opportunità un giorno o l'altro di andare in borsa? Qual è il vostro futuro? Qual è il suo futuro dopo Brooklyn? Siamo un'azienda privata, quindi ci interessa continuare a crescere in maniera organica. Questa nuova avventura è veramente entusiasmante, e chissà, speriamo che se ne accorgano molti dei nostri clienti in tutto il mondo. Chissà, magari se ne accorgerà anche Trump, chissà che non le arrivi anche un riconoscimento nazionale dalla Casa Bianca. Non si sa mai. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre la nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre con me ai microfoni di America 24, Alessandro Lanaro, imprenditore italiano che ha portato posti di lavoro manifatturieri in America, a Brooklyn. Alessandro, cosa vogliamo scegliere come canzone del giorno? Ma abbiamo parlato di occhiali, magari mettiamo Sunglasses After Dark. Sunglasses After Dark, occhiali da sole nella notte dei Cramps. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!